in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Tantissimi gli approfondimenti oggi, già ce n'erano tanti ieri, culturali e non solo, però c'è anche ancora tanta cronaca, anzi c'è sempre cronaca anche quando è estate. E partiamo quindi dal Corriere della Sera, che è il quotidiano che dà più spazio alla polemica prevedibile seguita alla notizia che abbiamo letto ieri sulla sentenza della Cassazione che obbligherebbe anche le scuole cattoliche a pagare l'ICI dalla quale erano state finora esentate. E allora le pagine 2 e 3, il Corriere della Sera analizza la questione, la richiama in prima pagina con il titolo "Assurdo far pagare l'ICI alle nostre scuole", questo è il primo commento a caldo della CEI, l'Associazione dei Vescovi. Il titolo principale però è la battaglia sugli scioperi, quindi riprende la questione doppia dello sciopero che ha bloccato i turisti a Pompei, uno sciopero assolutamente indetto all'improvviso, e invece quello annunciato ma che comunque ha causato tantissimi disagi dell'Alitalia con il taglio del 15% dei voli. La Repubblica ha un titolo ancora diverso perché ha un'intervista a Joram Gutgeld, che è il capo della Spending Review, colui che ha sostituito il precedente il precedente economista scelto per questa Spending Review, che sapete è tornato al Fondo Monetario Internazionale. Joram Gutgeld spiega: tagli sulla sanità, così risparmiamo 10 miliardi. È una lunga intervista che trovate alle pagine 2 e 3 e sono per ora degli annunci, ci sono anche tante cifre naturalmente, e vedremo nei prossimi mesi se veramente anche con questi tagli molto sostanziali, molto sostanziosi anche alla sanità, si riuscirà poi a trovare le risorse per quel taglio invece delle tasse che ha promesso Renzi settimana scorsa durante l'assemblea del PD che si è tenuta qui a Milano all'Expo. E la fotonotizia è dedicata a un reportage che poi trovate all'interno, sono sei pagine quasi di reportage bellissimo di Francesco Merlo, Hiroshima 1945-2015, pensate, sono appunto passati 60 anni dalla bomba di Hiroshima che da una parte mise fine alla seconda guerra mondiale e però dall'altra naturalmente aprì la questione della guerra fredda, delle superpotenze che avevano l'atomica, e sappiamo quanto ancora sia importante questa questione di chi possiede e chi no la bomba atomica. Sapete che se per esempio il famoso accordo appena firmato con Teheran, con l'Iran, continua a spaventare molto alcuni paesi, in primis Israele, per il fatto appunto che Teheran possiede probabilmente già adesso una bomba atomica. La prima pagina del Sole 24 Ore è dedicata al fisco, con il titolo "Sconti fiscali, si prepara una sforbiciata da 1,3 miliardi. Ci sono molte altre notizie che vengono raccolte in questo principale articolo che poi trovate a pagina 3, perché per esempio l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ieri ha detto che la ripresa, la famosa tanto attesa ripresa, si sta rafforzando e che nel 2016-2017 il PIL italiano potrebbe crescere non di quello 0, previsto per il 2015, ma dell'1,6%. In prima pagina trovate anche la consueta lettera al risparmiatore della domenica di Vittorio Carlini, che come sapete si concentra su un titolo quotato per dare consigli ai risparmiatori, chi magari ce l'ha già in portafoglio, chi lo vorrebbe nel proprio portafoglio. Questa volta è dedicato a Esprinet, una società high tech, e la novità soprattutto su cui si focalizza Vittorio Carlini è che c'è in vista una diversificazione, più produzione di accessori high tech e poi un focus sul Portogallo, quindi un'azienda che vuole ulteriormente internazionalizzarsi. Vi segnalo anche l'intervento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco, dedicato alle vacanze, un altro senso è possibile. Vi leggo le prime righe, poi trovate l'intervento a pagina 16. Si avvicina al mese di agosto, quello in cui parecchi italiani programmano i giorni delle loro vacanze. Tempi e possibilità non sono quelli di una volta, della stagione delle vacche grasse in cui si esitava a spendere più delle reali possibilità pur di assicurarsi vacanze spesso fagocitate dalla rincorsa delle apparenze e bruciate dalla ricerca spasmodica del divertimento a tutti i costi. Quindi una riflessione sul senso delle vacanze, sull'ozio anche se volete, e su quanto siamo disposti o possiamo spendere per per prenderci appunto delle vacanze più o meno lunghe. Anche naturalmente sul Sole 24 Ore approfondimenti sulla questione della CEI, della reazione della CEI alla sentenza della Cassazione che obbligherebbe anche le scuole cattoliche a pagare l'ICI, con due articoli, uno di Eugenio Bruno e uno di Gianni Trovati, e li trovate all'interno appunto del Sole 24 Ore. Il Messaggero naturalmente titola ancora su Roma, un titolo molto duro: paralisi Roma, Marino in bilico, perché la notizia di ieri è che si è dimessa anche l'assessore al bilancio, e anche in questo caso Silvia Scozzese. Si tratta di una viene definita renziana, cioè comunque di una persona molto vicina al premier Renzi. La prevista relazione di Alfano, ministro dell'interno, su Mafia Capitale slitta al 7 agosto e continua a esserci quella che Il Messaggero definisce la freddezza di Palazzo Chigi. Anche in questo caso molto spazio alla sentenza sulle scuole, sull'ICI, che poi in realtà adesso è diventata IMU, comunque la tassa sulle scuole, che sugli edifici che le scuole occupano, e che finora una tassa dalla quale finora le scuole cattoliche erano state esentate. Scuole religiose, scontro sull'IMU, no dei vescovi, il governo frena. Infatti la prima reazione del governo, di nuovo non a un'iniziativa appunto governativa, ma come abbiamo detto a una sentenza della Cassazione, è stata: convocheremo un tavolo. La Stampa anche in questo caso torna sugli scioperi, quindi all'Italia e Pompei l'accusa di Renzi, perché Renzi ieri è stato molto chiaro, ha detto addirittura, tra virgolette lo scrive La Stampa nel titolo, scandalose certe scelte del sindacato. C'è da dire che anche i vertici di alcuni sindacati, compresi CISL e UIL, sono stati molto critici verso l'atteggiamento in particolare dei sindacalisti che hanno indetto lo sciopero a sorpresa all'improvviso di Pompei. La fotonotizia anche in questo caso è dedicata a Hiroshima, perché La Stampa ha proprio un vero e proprio supplemento all'interno del giornale, l'atomica che cambiò il mondo, con due foto impressionanti scattate una qualche giorno dopo lo scoppio della bomba e una oggi. Il giornale, altro che tagli, l'IMU aumenterà, secondo questo è quello che sostiene il giornale, puntando soprattutto sul fatto che queste misure, come per esempio il taglio della tassa dell'IMU sulla prima casa promesso da Renzi, devono, come sappiamo, avere l'ok dell'Unione Europea, perché significano molte meno entrate per il governo, e quindi, siccome comunque la spesa dello Stato deve continuare, potrebbe voler dire rompere il patto di stabilità, e quindi secondo il giornale il governo sarà sbugiardato dall'Unione Europea. Prosegue, perché è iniziata solo ieri, forse lo ricorderete, l'abbiamo segnalato, questa iniziativa estiva del giornale di pubblicare ogni giorno una lettera d'amore, non magari famosa, ma di una personaggio, donna o uomo famosi. Ieri era una lettera di Oriana Fallaci, oggi è una lettera della poetessa Sibilla Aleramo, che viene intitolata «Volevo baciarti le ginocchia come una bimba». Vi segnalo anche dal giornale l'intervento di Vittorio Feltri sulla questione Crocetta, sapete la famosa intercettazione l'intercettazione fantasma, quella in cui il medico personale di Crocetta, ora agli arresti domiciliari, diceva Lucia Borsellino deve fare la fine di suo padre, deve essere uccisa. Crocetta sostiene l'Espresso in questa intercettazione non avrebbe assolutamente reagito, e questo sarebbe gravissimo naturalmente. Il problema è che l'intercettazione non si trova, e Feltri interviene sul caso, è molto duro, e il suo articolo comincia in prima pagina e poi continua a pagina 7, se il fango della sinistra macchia ma non indigna, un'analisi appunto della questione. Libero, l'America licenzia Marino, un titolo molto forte che, se volete leggere l'articolo, poi giudicherete voi se giustificato. Comunque tutto prende origine da quell'articolo che abbiamo credo anche citato ieri nella rassegna stampa europea, apparso sul New York Times, molto critico verso Roma, il degrado, la spazzatura per strada, le strade dissestate e tantissimi altri problemi che conosciamo. E secondo quello che scrive Libero, io non ho avuto modo di verificare, ma più tardi andrò online a vedere se non altro se ci sono tutti questi commenti all'articolo online, secondo appunto i giornalisti Libero che l'hanno letto, il New York Times, cito testualmente il sommario del titolo di Libero, sommerso dalle proteste dei suoi lettori per il degrado di Roma, che ormai è un caso internazionale. Il sindaco rappresenta un danno enorme per l'Italia, a due punti va cacciato subito, ma per i fedelissimi dell'Allegro Chirurgo borgo, dietro i disservizi nei trasporti c'è un complotto. L'Avvenire, come potete immaginare, titola sulla questione delle tasse sulle scuole cattoliche: libertà di educare ora più minacciata, questo è il virgolettato della CEI. Ci lasciamo un attimo per informazioni sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Torniamo sulle ultime prime pagine che ci mancano da segnalare e mi spiace insistere su questo, però anche oggi l'Unità ha un titolo assai bizzarro, perché ci si aspetterebbe che l'Unità, che è tornata in edicola il 30 giugno, desse un po' di spazio alla questione di Roma e alla questione Marino, è un sindaco del PD, ma no. Il titolo a tutta pagina dell'Unità è: così spenderemo 65 miliardi, lo stesso dossier che l'Unità aveva ampiamente analizzato sabato o domenica scorsa, cioè sui fondi dell'Unione Europea che finalmente siamo riusciti a intercettare, una buona notizia sicuramente, però come vi dico, sulla prima pagina non c'è la questione di Roma, che invece secondo me è centrale, ma è centrale anche per il partito di cui l'Unità è organo ufficiale, cioè il Partito Democratico. No, la notizia la trovate poi, mi sembra, a pagina 8, c'è però appunto a pagina 8, e tra l'altro la fotonotizia è quella che avevano i giornali ieri, cioè di Obama che in visita in Africa, Obama in Kenya, la sua Africa. C'è però l'intervento, come credo previsto ogni domenica, di Walter Veltroni, ex segretario del PD e anche ex direttore dell'Unità. Il suo editoriale oggi è: sinistra non è una parolaccia. Il Manifesto apre sulla questione delle tasse sulle scuole cattoliche, e il titolo però, come sempre, è molto immaginifico: lo scoppolone. E la foto è quella della cupola di San Pietro, e a pagina 2 e 3, quindi se vogliamo, ho detto che solo il Corriere della Sera dava tanto risalto a questa notizia, no, in realtà anche il Manifesto appunto, e il titolo, lo scoppolone, poi la sentenza è pericolosa e limita la libertà dell'insegnamento cattolico, un altro virgolettato della reazione della CEI di ieri, ma naturalmente invece il Manifesto è favorevole alla fine di questa esenzione. Il Fatto Quotidiano torna sull'inchiesta che avevamo segnalato ieri, che riguarda l'ENI e le presunte tangenti pagate in Africa, in particolare in Nigeria, e ribadisce il Fatto Quotidiano che ci sarebbe questa maxi multa negli Stati Uniti che farebbe rischiare la poltrona all'attuale amministratore delegato De Scalzi. Tanti approfondimenti anche sulla legge, già definita legge bavaglio, comunque la legge che dovrebbe regolamentare le intercettazioni, e che però è naturalmente in una fase ancora preliminare, sono molte le reazioni negative per ora. Vi segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport: ieri c'è stato il primo derby dell'estate, e il Milan ha battuto l'Inter 1-0, e quindi naturalmente la cronaca di questo super calcio d'estate, come lo definisce la Gazzetta dello Sport. Vediamo qualche articolo dalle pagine interne, poi naturalmente spazio ai supplementi culturali della domenica. Per esempio sul Corriere della Sera un articolo di Danilo Taino da Berlino, che ipotizza quello che dando conto di alcune voci che ci sono in Germania, in particolare di quello che sostiene il settimanale Der Spiegel. Schäuble, il ministro delle finanze di Angela Merkel, starebbe pensando a un super ministro per l'eurozona che potrebbe gestire un bilancio separato e potrebbe imporre un eurotassa, ma Angela Merkel sarebbe scettica su questa ipotesi. Fa parte di questa discussione che però, se nasce così un po' dietro le quinte, senza troppa chiarezza, così a naso non ci piace molto, comunque fa parte di questa discussione post accordo sulla Grecia, su come dovrebbero cambiare, lo dicono in tanti, le regole, la governance dell'Unione Europea. Dalla Repubblica vi segnalo un intervento di Azza Filali, una scrittrice tunisina, che ripercorre a un mese dalla strage, pensate, già passato un mese dalla strage dei terroristi sulla spiaggia di Susa, la scrittrice ripercorre la genesi di quell'orrore che ha travolto il suo paese, un ragazzo lasciato solo e finito nelle spire del jihadismo, il fallimento delle forze di polizia, la miopia della politica. Ma passiamo, mi spiace davvero, ma abbiamo poco tempo alla domenica, e quindi passiamo subito ai supplementi culturali. Cominciamo naturalmente dalla domenica. Vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, è dedicato ai libri, si intitola Una sana malattia, la citazione è di Petrarca. Sono dominato da una passione insaziabile. Vuoi tu sapere di che malattia si tratti? Non mi sazio mai di libri. E scrive Ravasi: per anni sono stato alla Biblioteca Ambrosiana il custode ufficiale di un gioiello preziosissimo, il Virgilio, con le note autografate del Petrarca e una mirabile miniatura a piena pagina di Simone Martini. Era il dono del padre del poeta, ormai rassegnato a una carriera del figlio così diversa da quella notarile auspicata. Con emozione Petrarca annotava quelle pagine, lasciandovi scivolare anche la sua storia, a partire dalla sofferta perdita di Laura. Nelle familiari, il passo sopracitato parla di una malattia, diremmo di una sana malattia, che si fa sempre più rara ai nostri giorni, la lettura. È una sindrome benedetta che ha però le sue regole, le sue degenerazioni, ma continuiamo a coltivarla cercando di trasmetterla. Confessava Tommaso Campanella: quanti libri tiene il mondo non saziar l'appetito mio profondo? Quanto ho mangiato e del digiun pur moro. E sempre ai libri è dedicato al memorandum di Roberto Napoletano, che questa settimana ci racconta di una libraia di Voghera, Elisabetta Balduzzi, che lui ha incontrato dopo aver incontrato più volte e comunque che gli aveva scritto. Gli aveva scritto una lettera spiegando che, oltre all'attività tradizionale di piccola libraia, che sappiamo è sempre più difficile, specie nell'era delle grandi catene, hanno avviato nella sua libreria di Voghera anche una piccola attività di editore, sfruttando le possibilità che la stampa in digitale dà oggi. E quindi Roberto Napoletano poi commenta questa iniziativa e dice: Elisabetta ci è riuscita a dar vita a questa iniziativa senza l'aiuto di fondi pubblici, a non far spegnere la sua piccola luce. Lo ha fatto con la testa e con il cuore, come dice lei, con un'idea antica settecentesca. Ma la copertina vera e propria del Domenicale è dedicata a una serie di scritti che verranno pubblicati di Edmondo Peluso, che erano stati pubblicati nel 1934 e ora vengono ripubblicati. Sono ricordi su Jack London, il grande scrittore che questo quello che viene definito appunto Edmondo Peluso un socialista dimenticato, ma che aveva incontrato questo grandissimo scrittore americano, e ora appunto ce lo riporta alla luce nel ricordo. Passiamo alla lettura, a proposito di lettura, del Corriere della Sera, che sapete per la seconda settimana è diventato più ampio, ha una formula diversa, viene non più allegato gratuitamente, ma viene venduto a 0,50 centesimi, poi resta in edicola tutta la settimana. È una scelta coraggiosa del Corriere della Sera, molto ricco quindi anche questo secondo numero. La copertina, come sempre, affidata a un artista, questa settimana è a Joseph Kossuth, che è un artista concettuale americano, ma vi segnalo per esempio dall'interno un bellissimo approfondimento, secondo me, di Pietro Minto, che si intitola Le discriminazioni degli algoritmi. Noi infatti magari a volte facciamo tantissime ricerche tutti i giorni su Google o su altri motori di ricerca, cosa ci sia dietro è molto complicato, però questo articolo ce ne dà un'idea. E così ci spiega: i motori di ricerca raccolgono da noi informazioni che ci riguardano, come età, etnia, sesso, ceto. Spesso, in base a cosa siamo, secondo loro, decidono per noi che cosa farci vedere e che cosa no. E quindi poi, come sempre in questa formula che ha la lettura, c'è appunto l'articolo principale, poi ci sono una serie di testi che si possono leggere per approfondire. E a proposito di testi, invece a pagina 22 Leonardo Caffo ci racconta torna su Henry David Thoreau, perché è stato ripubblicato da poco il suo libro più famoso, Walden, ovvero Vita nei boschi, e così il titolo dell'articolo di Leonardo Caffo: Primum filosofari deinde vivere, quindi prima si filosofeggia e poi si vive, la disobbedienza secondo Thoreau. E un altro articolo che vi segnalo è una mia passione di quando ero piccola, Max e Moritz, che sono due personaggi, vengono definiti un po' gli anti-Topolino, gli anti-personaggi Disney, e furono creati da Wilhelm Busch, che era uno scrittore, un poeta tedesco, e il titolo in realtà dell'articolo di Cristina Taglietti è I fratelli cattivissimi di Gian Burrasca, un po' un fumetto ante-litteram. Poi vi dicevo il supplemento culturale della Repubblica La Domenica, dove trovate dalla copertina per poi le 5 pagine successive il reportage di Francesco Merlo, Ritorno a Hiroshima, 70 anni fa la bomba atomica, ecco il mondo dopo la fine del mondo. E veramente Francesco Merlo è stato lì, ha raccontato, ha raccolto tantissime testimonianze Ci spiega per esempio che i sopravvissuti vengono chiamati i Bakusha, non hanno permesso che dalle vittime nascessero sempre solo altre vittime, che la bomba esplodesse ogni anno quel giorno, la gente si sarebbe annoiata. Oggi Hiroshima è bella perché non assomiglia a Hiroshima, è un capolavoro del nuovo inizio, è la fortezza di chi non si rassegna, così universale che i giapponesi si sentono stranieri. Poi vi segnalo una bella intervista soprattutto per i fan del personaggio, a Sean Penn, attore ma anche regista, due volte premiato con l'Oscar. È un uomo di poche parole che adora starsene in poltrona anche a non fare nulla. Di Hollywood dice: per quanto mi riguarda è un posto qualsiasi, per fortuna ho un sacco di altre cose di cui occuparmi a parte il cinema. Sentiamo fare spesso queste dichiarazioni, però insomma Sean Penn, vi assicuro, lo dice con una certa convinzione. Della serie Straparlando, che sono quelle interviste su due pagine fatte da Antonio Gnoli, sempre corredate dal bel ritratto di Riccardo Mannelli, oggi è un musicologo, Quirino Principe. Odio me stesso e odio ubbidire, coltivo l'arte luciferina di dire no. Musicologo, traduttore, dotato di memoria prodigiosa, nemico di ogni fede che è oppressione in nome di Dio. Ritratto di un grande eclettico, un altro veramente bellissimo ritratto di questi di Antonio Gnoli. Alias, il supplemento domenicale del Manifesto, ha quelle recensioni vecchio stampo, quindi una pagina intera per recensire un libro. Quella di oggi è al nuovo libro di Haruki Murakami, Uomini senza donne, che in realtà è una raccolta di racconti pubblicato da Einaudi, Storie amanti alla Murakami. In 7 nuovi racconti lo scrittore giapponese indaga con eleganza le relazioni amorose, focalizzandosi sulla perdita Uomini senza donne. E poi supplemento domenicale, Controcultura del Giornale, con tanti ritratti di quelli che vengono definiti rivoluzionari conservatori. In prima pagina, in copertina in particolare, Giovannino Guareschi, naturalmente l'autore di Don Camillo, e Leo Longanesi. Era l'ultima segnalazione, ma davvero divertitevi con i giornali oggi e con i loro supplementi. Una buona domenica da Giulia Crivelli.